al cor la mia speranza. Ah, disleal, tu segui che ti fugge, è un cuor che per te strugge, così crudel inganni. Intendesti del nero a cui in disparte sì, tutto intesi. Oh, mio tradito amore, ma sostener non posso l'onda dei tuoi disprezzi. Parco, tu resta, e teco resti ognora la pace che mi lasci. Ove trovar tu speri, togliente letti, amore, ti seguono sventure, affanni e pene. Va, ingrata, e qual mi fai vivi infelice, femmina menzognera, ingannatrice. Tu torresta finendo, si lusinghi e al mio amor così ti serva. Senti, con la costanza si vince amore, segui ad amarmi e spera. Dalla tua fede intanto un testimonio chiedo, essi del vivo or che non illa perde ogni passo osservar, s'altra egli adora. Sì, finendo, già ormai la speme di tal prova m'innamora.